La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Ben ritrovati amici alla Rosa Purpurea, un saluto da Franco D'Assisti, una puntata di cinema di qualità, perché questo passa il convento del cinema in questa settimana. Ne parleremo nel corso della prossima ora, un paio di film davvero importanti da segnalare, ma anche lo spazio per fare un salto alla Mole Antonelliana, al Museo del Cinema di Torino, per vedere quali sono le ultime novità, e poi i DVD Game, come sempre le recensioni, in questa puntata che potremmo chiamare la puntata di San Valentino, visto che cade proprio in questo fine settimana. Allora noi cominciamo, come sempre, riepilogando il meglio dei nostri contenuti nei titoli di testa. Dopo il Colossal c'è L'Aldilà. 5 anni dopo King Kong, il regista del Signore degli Anelli torna con un thriller paranormale, Amabili Resti. Nel cast Mark Wahlberg e un cattivissimo Stanley Tucci. Viaggio a Lourdes con Jessica Hausner. La regista austriaca presenta il film sui pellegrini che affollano il luogo di culto in cerca di miracoli. Rivelazione alla Mostra del Cinema di Venezia. Disney pesca in Germania. Arriva nei nostri cinema Maga Martina, primo film tedesco prodotto dalla prestigiosa Casa di Topolino. Locandine virtuali, effetti speciali e capolavori restaurati. Si rinnova il Museo del Cinema di Torino. Ne parliamo con il presidente Alberto Barbera. E questi sono quindi i contenuti principali della nostra puntata. Cominciamo subito, come sempre, con l'attualità cinematografica. Allora, abbiamo detto Amabili Resti, The Lovely Bones. Torna Peter Jackson, è un ritorno importante di un regista che ha segnato in maniera profonda l'inizio di questo decennio, soprattutto con la trilogia del Signore degli Anelli, ma non solo. Però Peter Jackson c'era anche prima e faceva un cinema più piccolo in termini produttivi, ma anche più innovativo sotto il profilo squisitamente, diciamo, della qualità e della cifra stilistica. È un po' a quel cinema che si è rivolto in questo suo nuovo film, tratto dal libro di Alice Sebold, appunto intitolato The Lovely Bones, e andiamo a sentire insieme allora di cosa si tratta. Siamo a Norristown, in Pennsylvania, lunga teoria di villette a schiera e tutto intorno campi di grano turco. Lì vivono i Salmon, famiglia comune, papà Jack, appassionato di velieri in bottiglia, mamma Abigail e le sorelle Lindsay e Susie. Susie è una adolescente timida ma piena di interessi, soprattutto la fotografia. Riceve per il suo compleanno una macchina fotografica e 25 rullini che esaurisce in pochi giorni. In quelle foto, apparentemente sprecate, si celeranno però le tracce del suo tragico destino. Susie va a scuola e si innamora di Ray Singh, bruno, ricciolo e gentile. È il 6 dicembre 73 e il cielo sta per rovesciarsi sulla tranquilla quotidianità della famiglia Salmon. Oh! Cavolo! Oops. Ti aiuto? Non fa niente. Ho fatto. Stupidi libri, poi. Tanto neanche li leggo io. Beh, un po'. Susie, sabato che programmi hai? Così tu vieni dall'Inghilterra? Sì. Sei bellissima, Susie Salmon. Susie viene adescata quel giorno di dicembre dal vicino di casa, ometto di mezza età con lobby delle case di bambola. Harvey si chiama, si offre di accompagnarla e la invita a passare qualche minuto nel rifugio sotterraneo che ha costruito, una sorta di club 3 metri sotto il cielo. Sarà l'ultima cosa che Susie vedrà nella sua vita terrena. Holiday! Va bene, ok. Sei una Salmon tu, vero? Va bene. Va bene. Holiday, andiamo. Tutto questo lo spettatore lo sa già sin dall'inizio del film, dove la voce narrante di Susie racconta che quella è stata la sua breve vita. Poi, dopo la morte di Susie, il film si trasferisce da un'altra parte, una dimensione ultraterrena, metafisica, un limbo colorato e placido dal quale la ragazza continua a raccontare la sua storia, teleguidando la sua famiglia verso una serenità possibile che non può non passare attraverso la soluzione del suo omicidio. Un film spiazzante e rischioso, quello che segna il ritorno di Peter Jackson 6 anni dopo l'ultimo capitolo del Signore degli Anelli e 5 dopo il colossal King Kong. Rischioso perché quando si tratta il tema dell'aldilà, che cerca di restare attaccato all'aldiquà, i sentimentalismi sono in agguato, pensate a Ghost, tanto per fare un esempio. E non sempre si riesce a dare credibilità alla narrazione. Infatti Amabili Resti, buona traduzione dell'originale The Lovely Bones, non sempre ci riesce. Il film è così bello nella sua componente thriller e terrena che tutto il côté post-mortem, vagamente New Age, distrae lo spettatore, quasi fosse un inutile diversivo. E ciò nonostante, Amabili Resti è un film da non perdere per alcuni straordinari momenti creati da un talento assoluto come quello di Peter Jackson e per la straordinaria prova di alcuni attori. Rimangono impressi la repressa cattiveria dell'assassino Stanley Tucci, che gli è valsa una nomination all'Oscar, e il disincanto etilico della nonna Susan Sarandon. Andiamo allora a sentire i protagonisti di questo film. Cominciamo con il regista Peter Jackson, che ci spiega quali sono stati i motivi che lo hanno spinto verso la riduzione cinematografica di questo romanzo. Il libro aveva molti temi complessi che venivano raccontati in maniera molto interessante. Così ho pensato che sarebbe stata una vera sfida provare a trasporre tutto ciò in un film. E poi c'era il fatto che la storia era molto diversa da tutto ciò che avevo mai visto prima. Mi ha davvero affascinato. E com'è stato lavorare con un produttore niente meno che come Steven Spielberg? Beh, la compagnia di Steven ha prodotto il film, insomma, hanno messo i soldi. E Steven ha seguito passo dopo passo tutta la sua realizzazione. Gli abbiamo continuamente mandato degli spezzoni da visionare e, come dire, non c'era persona migliore al mondo a cui chiedere giudizi e con cui condividere le idee. Deve aver visto il film almeno 10 volte mentre lo stavamo girando. È stata una grande collaborazione. E passiamo invece a Mark Wahlberg, l'attore protagonista, nel senso che interpreta il padre della ragazza scomparsa. È un ruolo molto difficile perché è un ruolo che ha a che fare con il concetto del dolore e quello della perdita, concetti che non sono facili da raccontare. Tutti possiamo comprendere il dolore di una perdita, che sia causata da una tragedia o da un evento naturale, e a maggior ragione un dolore di questo tipo, come perdere un figlio. Mia sorella morì proprio il giorno in cui nacque mia figlia e mia mamma non è stata più la stessa. Certo, chi ha vissuto la perdita di un parente può facilmente identificarsi nei personaggi del film. Per questo il film è molto toccante, ma allo stesso tempo dà sollievo e speranza. Io credo fermamente che esista il paradiso. E sappiamo bene che la nostra vita terrena è comunque troppo breve, sia che si arrivi a 100 anni, sia che si viva appena 14 anni. Per me è senza ombra di dubbio una storia molto confortante. La rosa purpurea. Ho sentito dire che qui è possibile far guarire il proprio corpo, che si può arrivare a guarigioni miracolose. Sì. Volevo sapere cosa bisogna fare. E prima di tutto bisogna guarire l'anima. È soltanto così che il corpo può guarire. Le parole che avete sentito fanno parte di un film veramente molto particolare che ha trovato la via della sala in questo fine settimana. Si intitola Lourdes, semplicemente. È stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nello scorso mese di settembre e fu una vera e propria rivelazione. Molti colleghi, dopo averlo visto, giravano per il Lido proprio incantati rispetto a questo film che aveva rivelato il potenziale di una regista austriaca che si chiama Jessica Hausner, che aveva fino a quel momento realizzato film anche di genere, ricordiamo anche un horror, e che si era invece adesso messa di fronte a una sfida importante, quella di raccontare uno dei luoghi più leggendari della religiosità, anche della ricerca di un miracolo, e proprio come scopriremo nel corso del nostro racconto, la volontà di raccontare come nasce un miracolo, cos'è un miracolo, è stata la base dell'idea di questo film. Lourdes, siamo proprio a Lourdes. Avete sentito, guarire il corpo, guarire l'anima prima di poter guarire il corpo. Questa è un po' la regola che vige in questi viaggi. 8 milioni, pensate, di visitatori all'anno, di pellegrini che cercano qualcosa per se stessi o per un loro caro. Questa è Lourdes, questo è il fenomeno Lourdes, al di là delle implicazioni religiose, su cui ognuno ovviamente ha il suo punto di vista. E allora si comincia proprio con il pellegrinaggio a Lourdes, con un gruppo di pellegrini che arriva nella località. Ci sono malati, persone sane che intraprendono questo viaggio nella speranza di trovare un conforto. La protagonista del film è Christine, una ragazza ancora giovane, inchiodata sulla sedia a rotelle da una malattia che sembrerebbe incurabile e che, come tutti, come molti, è andata lì per cercare il miracolo. E lo spettatore viaggia insieme a lei, ne segue le giornate nella loro banalità, in un certo senso, che somigliano molto a quelle di una vacanza di gruppo. Non ci sono tante differenze nell'approccio pre-spirituale rispetto a una vacanza in Romagna. Tutto sommato la situazione è un po' quella. L'altra protagonista di questa prima parte del film è Maria. Maria è una giovane, invece, appartenente ai volontari dell'Ordine di Malta, che sono la grande presenza, accompagnano i malati, eccetera, e che si cura proprio di Christine, la nutre, la lava, l'aiuta a coricarsi. E qui voglio introdurvi i prossimi contributi, perché è molto interessante stabilire come il malato veda la propria condizione e come chi aspetta la guarigione veda con una certa invidia il malato che viene colpito dalla guarigione prima di lui. Insomma, c'è un continuo coacervo di sentimenti intricati che vengono svelati e vengono rivelati da questo film. Cominciamo ad ascoltare questa clip. Padre, scusi, mi dispiace disturbarla, ma le vorrei chiedere. Noi tutti ci poniamo la stessa domanda. Perché proprio lei è stata guarita e non, diciamo, il signor Ruby? Dio è libero. Le sue volontà spesso sono un mistero per noi che cerchiamo sempre delle spiegazioni. Perché è guarita lei e non un'altra? È il principio della vita. La ringrazio. Avete sentito? Perché è stata guarita lei e non un altro? Quasi che fosse una colpa. Sì, perché quello che succede durante questo pellegrinaggio è che Christine guarisce. Christine guarisce una notte, semplicemente si alza dal letto e va in bagno con le sue gambe. La guarigione, il miracolo, è avvenuto, e chi le sta vicino, invece di solidarizzare, invece di essere felice per questa guarigione, si pone il problema, e lo pone a un sacerdote in questo caso: perché lei sì e un altro no? E poi il sottotesto è: perché lei sì e io no, ovviamente. D'altro punto di vista, però, è un'invidia, fra virgolette, che prova anche chi è malato e vede la vita degli altri svolgersi normalmente. Sentiamo. Spesso sono arrabbiata perché è toccato a me ammalarmi e non a un altro. Perché io talvolta invidio gli altri, perché possono camminare e fare tutto normalmente, senza pensarci. C'è gente che soffre più di me, ma non mi ispira nessuna pietà. Avete sentito? Questa è la Christine che invece spiegava il suo sentimento. C'è gente che soffre più di me, ma non mi ispira nessuna pietà. In quelle condizioni probabilmente viene meno anche la voglia di potersi, la forza più che altro, di potersi dedicare così tanto agli altri. E noi assistiamo durante il film a questo microcosmo. C'è una trama che continua intanto, perché a un certo punto Maria, la giovane Maria che accompagna Christine, si stanca un po' di star dietro a questa malata. È una ragazza giovane, avvenente, preferisce passare il suo tempo con i suoi coetanei che sono lì a Lourdes per appunto accompagnare i pellegrini. Questo introduce un terzo elemento importante del film, che è lo sguardo di chi malato non è su chi malato è, lo sguardo di chi sta bene su chi soffre. E anche questo è un taglio molto interessante del film di Jessica Hausner, perché guarda dentro la maggior parte di noi, a come guardiamo la malattia, a come guardiamo la sofferenza. Tanto è vero che Christine a un certo punto, persa Maria, si fa curare dalla signora Hartle, che è una sessantenne molto brusca, solitaria, che prende in cura quasi come una missione questa ragazza, e lì avverrà appunto la famosa guarigione, che Christine spiega così. Diciamo che si è svolto in maniera progressiva. Ho sentito qualcosa nelle mani dopo le piscine, e poi nella grotta Ho alzato la mano e ho toccato le rocce. Prima non ero in grado di muovere neppure un dito. Uscendo dall'acqua. Molto interessante. Ma dentro di lei ha sentito una specie di illuminazione? Non proprio. E questo è un po' una delusione, se vogliamo, in questa sorta di interrogatorio, perché Christine è chiamata e da fonti mediche e da fonti religiose a spiegare il miracolo, quasi fosse lei in grado di poterlo fare. Christine, che comunque si aggrapperà ovviamente a questa nuova occasione di felicità, al fatto di poter amare, di poter ballare, di poter stare semplicemente in piedi, camminare o correre, e lo farà con tutta la sua forza, temendo che tutta questa situazione possa rivelarsi effimera. Allora, abbiamo detto, regia molto asciutta da parte di Jessica Hausner, che concretizza talmente tanto gli elementi, toglie talmente tutti i fronzoli da rasentare l'astrazione in un certo senso. E questo però è il fascino di questo film asburgico sotto questo profilo. Dicevamo quindi riflessione sulla malattia, ma anche sullo sguardo di chi è sano e guarda chi è malato, e anche interessantissima analisi del fenomeno Lourdes, proprio come fenomeno sociologico. Mai capitato, a chi non è capitato almeno di andare a Lourdes, beh, davvero capiterà di vedere che cos'è questo mondo, ed è la prima volta che in un film lo si vede, perché è stato non facilissimo per Jessica Hausner ottenere tutti i permessi per girare on location, come si dice, proprio a Lourdes. Andiamo ad ascoltare allora la regista austriaca, che spiega proprio quanto il miracolo, il concetto del miracolo, l'avesse attratta nel realizzare questo film. Es ist eigentlich interessanter zu sehen. Credo che la cosa più importante sia l'ambivalenza del miracolo che mi ha colpito profondamente e che volevo rappresentare nel film. Ci sono molti aspetti del miracolo. Non si può certo dire che un miracolo sia avvenuto per una ragione particolare, né che sia giustificato, né che duri nel tempo. Se guardiamo bene al fenomeno che sembra un miracolo, ci rendiamo conto che in realtà è molto più confuso e ambivalente. Wunderbar ist, aber eigentlich, wenn man genauer hinschaut, sehr ambivalent ist. Era Jessica Hausner, abbiamo parlato di Lourdes, la seconda proposta di questa settimana. A questo punto noi cominciamo a giocare, come sempre, come da tradizione, con il nostro DVD o Blu-ray game. In questo caso giochiamo ancora con il nuovo formato ad alta definizione e ascoltiamo la prima clip. Che significa? È solo un giuramento di fedeltà. Alla CBS? E all'America. Giuri fedeltà all'America? Sì, lo so, ma lo hanno firmato e tutti i reporter. La CBS, Fred lo ha firmato, Pele. Marrow lo ha firmato. Anche Marrow. Certo. Se avete già capito di che film si tratta, La Rosa Purpurea, @radio24.it è l'indirizzo per provare a giocare e vincere questo DVD. Inserite sempre il vostro indirizzo per poter eventualmente ricevere a casa il Blu-ray di questo film. Più tardi, un'altra possibilità. Trasferiamoci dai film impegnati che abbiamo trattato fino a questo momento ai film per i più piccoli, perché la Disney è andata a pescare in Germania. Sì, perché il nuovo film con il prestigioso marchio disneyano è stato realizzato proprio in Germania. Si intitola Maga Martina, lo ha visto per noi Chiara Pizzimenti. Ormai Teodolinda è troppo vecchia per custodire il libro magico, è arrivata l'ora di trovare una degna erede. Teodolinda è una strega buona, ormai però è avanti con gli anni e deve trovare la sua erede, una missione da affidare a un degno cavaliere, Ettore. Un dinosauro. È un tatadrago. Sei un drago vero. Cerco la nuova super maga. La maga Martina, la super super mega mega cia cia cia maga. E la sente. È sempre il libro magico che sceglie la maga degna di possederlo. E la cerca sempre tra le bambine normali come te. Eccola la futura super maga. È una bambina come tante che deve dimostrarsi però all'altezza del compito. Deve superare una prova di 99 ore e fronteggiare un nemico molto cattivo, Geronimo, che con il suo scagnozzo Serafino cerca di rubare il libro degli incantesimi, con cui potrà creare la macchina per il dominio del mondo. La prego, signora, mi guardi attentamente negli occhi. Mamma, no! 3,50 euro e passo a pagare la prossima settimana, siamo d'accordo? Bene. Mamma, no, non puoi dargli il libro magico! Grazie tante, Maga Martina! No, anzi, meglio, ex Maga Martina! Serafina! Arrivo! E chi ci ferma più adesso? La lotta sarà dura, ma il bene ce la farà. Maga Martina e il libro magico del draghetto è il primo film tratto da una serie di libri per ragazzi che hanno venduto oltre 10 milioni di copie nel mondo. È già divenuta una trasmissione televisiva di successo ed è anche la prima produzione della Disney in Germania. Una storia di formazione, una bambina normale che si trova di fronte a situazioni fuori dall'ordinario. Una storia dalla struttura semplice, forse un po' schematica, ma godibile. Stefan Ruzzovischi, già Oscar per Il falsario, dirige Umani e Cartoni animati insieme. Il film piace a grandi e piccini. Sì! Cosa ti è piaciuto? I personaggi, la strega, il drago e gli effetti speciali. Tutte le magie. Mi è piaciuto perché raccontava una storia bellissima. Che comunque era simpatico, il drago parlava in siciliano, io sono siciliana. Carino, sì, simpatico. È stato divertente. La strega, il drago, ci stavano un sacco di belle cose. Perché raccontava di una cosa bellissima. La rosa purpurea. Di nuovo insieme alla Rosa Purpurea, terza parte del nostro programma, esaurita la parte di attualità cinematografica con i nostri consigli. Vi ricordo tra l'altro che esce nelle sale italiane anche Scusa ma ti voglio sposare di Federico Moccia, con il cast più o meno replicato dal precedente Scusa se ti chiamo amore, Raul Bova, Michela Quattrociocche su tutti. Un film che si piazzerà probabilmente nella classifica della prossima settimana. Noi andiamo a vedere invece come sono andate le cose in classifica scorso weekend. Continua il dominio di Avatar, che incassa altri 5 milioni e mezzo nel weekend e arriva a quasi 48 dall'inizio del suo sfruttamento in 4 settimane. Ma di meglio in termini relativi ha fatto Paranormal Activity, l'horror a bassissimo budget ma ad altissimo rendimento, che ha incassato nel suo primo weekend in Italia 3 milioni e 600 mila euro e soprattutto ha fatto segnare la miglior media per sala nelle oltre 400 sale cinematografiche che l'hanno ospitato. Davvero un risultato strabiliante per Paranormal Activity. Terzo posto quindi per Baciami ancora di Muccino, quarto per Alvin Superstar, quinto Tra le nuvole, sesto La prima cosa bella, ancora cinema italiano. Voglio segnalare al settimo posto Il concerto, il film che abbiamo lanciato qui dalla Rosa settimana scorsa con l'intervista al regista Rado Michaeleano, un film d'autore che ha però ottenuto un ottimo successo di critica e di pubblico, settimo posto nella graduatoria in sala in Italia. Questo per quanto riguarda l'attualità, quindi gli incassi e il box office. Noi ci trasferiamo però in un luogo mitico del cinema in Italia, anche se di recente, non più recentissima, ma insomma recente creazione, come il Museo del Cinema della Mole di Torino, un posto davvero strabiliante per chi ci va soprattutto la prima volta e vedere dentro questa incredibile struttura tutto il cinema e tutta la suggestione del cinema fa sempre un certo effetto. Ma è un museo che si rinnova, è un luogo che cambia pelle di volta in volta, ci sono nuove installazioni che vanno dalle locandine virtuali agli effetti speciali che ci permettono di entrare addirittura in un film. Ci facciamo spiegare tutto dal direttore del museo, Alberto Barbera. Ciao Alberto, grazie per essere qui con noi alla Rosa Purpurea. Allora, possiamo parlare di un museo del cinema che non sta mai fermo e cambia pelle continuamente? Sì, anche perché il principio stesso del progetto originario del museo fatto da Confino era che si trattasse di una, come dire, di un percorso rinnovabile, non identico a se stesso, non destinato a rimanere uguale per tutto il tempo. Il cinema è un'arte giovane che risente moltissimo delle innovazioni tecnologiche e in qualche modo è giusto che anche il museo, no, segua questa tendenza. Le installazioni che inauguriamo fra un paio di giorni sono in realtà due. Una riguarda la Galleria dei Manifesti. Il museo possiede una collezione enorme, oltre 500.000 manifesti dalle origini del cinema ai giorni nostri. In questa galleria ne sono esposti 180 e quella che aggiungiamo è un'installazione interattiva, tecnologicamente all'avanguardia, che consente di, davanti ad uno schermo ad alta definizione, di sfogliare una sorta di catalogo virtuale con il semplice gesto della mano, senza toccare nessuno schermo, senza avere nessun contatto fisico, di sfogliare una sorta di album tematico che raggruppa 200 nuovi manifesti digitalizzati dalla collezione del Museo del Cinema. La seconda invece va a completare il percorso dedicato agli effetti speciali, una breve storia degli effetti speciali dalle origini, dal muto ai giorni nostri. Abbiamo rifatto l'ultima installazione, l'abbiamo rifatta per renderla più efficiente, più moderna e più sorprendente. Il visitatore potrà vedersi proiettato all'interno, a sua scelta, di tre sequenze diverse: un film di fantascienza, una corsa tecnologica nel futuro, eccetera, utilizzando così la tecnica del chroma key, che è quella ampiamente utilizzata per gli effetti speciali del cinema di oggi. Quindi da una parte un jukebox, potremmo dirlo, di locandine, che è molto suggestivo, sì, no? Perché si può fare la propria scelta, non serve neanche la monetina, si può fare la propria scelta. Non serve nulla, non bisogna toccare nulla, bisogna solo girare con un gesto della mano e guardarsi queste bellissime manifeste che appartengono ai generi classici. Non so, c'è una serie di manifesti del neorealismo italiano, una serie di manifesti del cinema classico americano, un'altra serie di film di fantascienza. Insomma, e poi è comunque una cosa implementabile, quindi potremmo aggiungere a piacimento manifesti in questa nuova installazione, cosa che faremo sicuramente negli anni a venire. Ecco Alberto, il museo però non è solo esposizioni, è anche proiezioni, e in questo noi vogliamo segnalare questa rassegna che avete varato, che si intitola Magnifiche Visioni, dove magnifico è un aggettivo che ha assolutamente il suo peso. L'avete già cominciata con un film semi sconosciuto per i più, insomma, di Vincent Minnelli, Brigadon, e poi da Lola Montes di Max Ofulsa, Playtime, lo strepitoso Playtime di Jacques Tati, per andare avanti con grandi capolavori italiani, Lawrence d'Arabia. Ecco, cosa hanno in comune questi film? Che sono tutte copie straordinariamente restaurate, quindi restituite a una sorta di prima visione. Come è nata l'idea di farle vedere e come le avete scelte? Ma l'idea è nata perché in realtà si restaurano sempre più film, per fortuna, grazie al lavoro straordinario delle cineteche di tutto il mondo e grazie anche in parte agli stessi produttori che si sono resi conto di quanto il loro patrimonio oggi abbia ancora più valore di qualche anno fa, insomma. Per cui i film si restaurano, non sempre però il pubblico ha occasione di vedere i film restaurati, perché lo scopo principale è garantirne la conservazione. Alcuni di questi film finiscono nel mercato del non video su edizione DVD, ma certamente vedere un film in 35 su grande schermo in una sala cinematografica è un'esperienza incomparabile che a casa, per quanto si abbiano degli schermi belli a LCD o a LED, non si può che lontanamente evocare. E allora l'idea è stata quella, insomma, di offrire al pubblico un'occasione per vedere queste copie stupende, restaurate grazie a investimenti economici ingenti e soprattutto a un grande lavoro professionale che richiede grandissima passione oltre che competenza tecnica. Ecco Alberto, dicevamo le scelte, qual è stato il criterio? Perché appunto, come dicevi, sono veramente tanti, e di quale, dacci uno o due titoli, di quali ti senti più orgoglioso in questa rassegna? Abbiamo selezionato fra gli ultimi restauri fatti dalle ex importanti europee negli ultimi tempi. Di cosa sono orgoglioso? Ma per esempio tu hai già citato alcuni titoli che sono tra quelli più come dire, interessanti, rilevanti e appetibili, ma c'è un'altra cosa sicuramente poco conosciuta ma che consiglio a tutti, che è un film, uno dei primi film di Joseph Losey, uno di quelli che l'ha fatto conoscere, che l'ha imposto all'attenzione di tutto il mondo, che si chiama in originale The Prowler, che è un noir molto amaro, molto cupo, assolutamente straordinario, che ho avuto occasione di vedere per la prima volta, anch'io non l'avevo mai visto. Ho avuto l'occasione di vedere per la prima volta al Festival di Lione l'ottobre scorso, è stata una folgorazione, ho deciso che valeva la pena di farlo conoscere anche al pubblico torinese e a quelle persone curiose che magari hanno voglia di farsi un viaggetto a Torino per vedere il Joseph Losey e di visitare nel contempo il Museo del Cinema. Grazie Alberto Barbera, allora appuntamento al Museo del Cinema di Torino, che è sempre lì nella mole, inamovibile da fuori ma molto in movimento da dentro. grazie a te. E grazie allora ad Alberto Barbera, Museo del Cinema di Torino. Noi andiamo avanti con la seconda finestra aperta sul DVD Game di questa settimana. Ascoltiamo. Io credo di dovermi fare da parte. Palmer, stai scherzando? La mia ex era una... Beh, non direi che fosse una comunista, ma sicuramente è andata a qualche incontro. Era prima che ci sposassimo, l'ho saputo solo dopo il divorzio. Ma prima eravamo tutti dalla stessa parte. E questa era la seconda tranche di questo film che stiamo proponendo oggi, il Blu-ray, in omaggio per chi indovina di che film si tratta, per primo il sabato e per primo la domenica. L'indirizzo per partecipare è larosapurpurea@radio24.it. E siamo alla nostra rubrica Trailer USA, che ci dà sempre la possibilità di scoprire i nuovi film nelle sale cinematografiche americane. E c'è un una notizia questa settimana. In America è già successo, da noi forse succederà fra poco. Come tutti i grandi successi, con un inizio e inevitabilmente una fine, anche Avatar non fa eccezione. Dopo essere stato per 7 settimane re assoluto degli incassi nel box office americano, il film, candidato a 9 Oscar di James Cameron, viene spostato al secondo posto, viene scalzato da Una storia d'amore. Non poteva succedere altro che così, forse, dalle parti di San Valentino. In questa puntata di Trailer USA vi parliamo quindi di Dear John, un film romantico che vede nel cast come protagonista Amanda Seyfried, la ricorderete, l'attrice, la giovane attrice che ha interpretato la figlia di Meryl Streep nel musical Mamma Mia. Ne parliamo con la nostra Micaela Belisario. Ciao Micaela. Eh sì, proprio così. Ciao Franco, prendendo a prestito un proverbio latino, potremmo dire che omnia vincit amor, cioè l'amore trionfa davvero su tutto, evidentemente anche sul box office. Dear John, caro John, è tratto da un romanzo di Nicholas Sparks che si intitola Ricordati di guardare la luna, e se consideriamo che il film è stato proiettato proprio in concomitanza con la finale del Super Bowl americano, è tutto dire. Il film racconta la storia d'amore tra due ragazzi, John e Savannah. Lui è un inquieto soldato americano che viene spedito in Germania a svolgere il servizio militare, e durante una licenza a casa in Carolina incontra quella che forse è la donna della sua vita, ovvero Savannah. Nascerà una grande storia d'amore, e in questo passo del trailer vi facciamo sentire proprio il loro incontro. Lui si tuffa in acqua per recuperarle una borsa caduta da un pontile sul mare. Don't worry about it. I'm Savannah. John. Nice to meet you, John. Ecco, inevitabile, dopo questo incontro John e Savannah si innamorano, e anche se siamo nell'era di internet e delle mail e dei messaggini, si scrivono tante lettere a mano con la promessa di pensarsi guardando la luna, proprio una cosa romantica. Ma il destino crudele interviene con l'11 settembre e sconvolge i loro piani d'amore, nel senso che lui sarà mandato in una missione pericolosa e lei, stanca di aspettarlo, cederà alle lusinghe di un altro ragazzo. Però quello stesso destino crudele in qualche modo li farà incontrare di nuovo, e questo sconvolgerà ancora una volta le loro vite. In questo passo del trailer sentiamo John e Savannah mentre si leggono alcune lettere che si sono mandati. Dear John, tell me everything. Write it all down. That way we'll be with each other all the time, even if we're not with each other at all. It's a full moon here tonight, which makes me think of you. Half a world away. Letter number 8. Letter number 33. Dear John, I miss you so much it hurts. Insomma, un film a strappalacrime. Come abbiamo detto, Dear John è uscito negli Stati Uniti il 5 febbraio, da noi non c'è ancora una data di uscita. L'unica cosa certa è che il colossal più ricco della storia del cinema è stato battuto da un film romantico al botteghino. Ciao Micaela. Ciao Franco, alla prossima settimana. La Rosa Purpurea. Di nuovo insieme alla Rosa Purpurea, eccoci qua nel nuovo cinema casa mia, come ribattezziamo quest'angolo della nostra trasmissione, dove cerchiamo di scoprire come passare le serate vedendo del buon cinema, anche quella volta che ve lo concediamo, non andiamo al cinema in sala, che è sempre il must della Rosa Purpurea. Però, Film TV, come sempre, il settimanale Film TV ci aiuta a scegliere qualcosa nella programmazione in chiaro e quindi gratuita della settimana successiva, e noi sentiamo cosa ci consiglia oggi Claudio Bartolini. Ciao Franco, ciao a tutti gli amici di Radio 24. Il suggerimento di questa settimana da parte della redazione di Film TV è La promessa dell'assassino di David Cronenberg. Il film andrà in onda nella giornata di mercoledì 17 febbraio su Rai 4, quindi canale free, non a pagamento, del digitale terrestre, alle 21.10. È importante questo titolo perché è l'ultimo film di David Cronenberg, datato 2007, che è un po' il compimento di tutto il suo percorso cinematografico. Noi sappiamo che Cronenberg parte con degli horror carnali, viscerali, in cui mette in scena la mutazione, pensiamo a Rabid, Scanners, La Mosca, Videodrome. La sua riflessione si fa via via più teorica e si passa dalle viscere, dal sangue pulsante, ha invece un'interiorizzazione sempre di un processo di mutazione, quindi di un processo di matrice virale. Ecco, il percorso era già stato iniziato da Cronenberg con A History of Violence, e ancora Viggo Mortensen, che anche in quest'ultimo film è protagonista, incarna un po' l'alter ego cronenberghiano. Alter ego perché? Perché è sulla sua pelle e soprattutto nel suo animo che vanno a innestarsi le mutazioni, in questo caso mutazioni che andranno a collidere con quello che è l'universo della mafia russa a Londra. E anche questa è una curiosità, è il primo film di Cronenberg girato interamente al di fuori del Canada o degli Stati Uniti. Ecco, a questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima settimana con nuove segnalazioni cinematografiche. Grazie Claudio Bartolini di Film TV. Ricordo ancora La promessa dell'assassino, mercoledì 17 febbraio ore 21:10 su Rai 4. E passiamo a questo punto a giocare per l'ultima volta, l'ultima traccia del film misterioso di questa settimana. Non è stato lui a creare questo clima di paura, lui l'ha solo sfruttato, con un discreto successo aggiungerei. Cassio aveva ragione. La colpa, caro Bruto, non è nelle nostre stelle, ma in noi stessi. La Rosa Purpurea @radio24.it per provare a giocare e vincere il Blu-ray di questo film. A questo punto dovete per forza aver indovinato di che film si tratta, altrimenti ovviamente non riuscirete a vincere, ma insomma è un film di una certa importanza e con un attore molto molto quotato. Noi andiamo invece a vedere cosa avevamo sentito, cosa avevamo proposto la scorsa settimana. Abbiamo recuperato una delle clip misteriose di 7 giorni fa. E come si chiama lei? Antonio Margareti. Ancora? Margareti. Un'altra volta, ma adesso vorrei proprio sentire la musica delle parole. In Italia parlano così solo delle persone ubriache, anche molto. Però era divertente, perché in questo film invece avevano fatto recitare questa parte in italiano i grandi protagonisti di questo film, che era Bastardi senza gloria, Inglourious Basterds di Quentin Tarantino, 8 nomination agli Oscar per lo zio Quentin, e hanno indovinato in molti, devo dire, fra il sabato e la domenica, hanno giocato ancora più persone, ma i più rapidi sono stati Ines Croci di Castellarquato in provincia di Piacenza e Manuel Morelato di Herbè, provincia di Verona. Riceveranno proprio il Blu-ray di questo film, che ha condensato un pochino tutte le emozioni della scorsa stagione cinematografica. È con noi Claudio Poffi, che come sempre ci racconta un po' cosa aspettarsi da questa uscita. Un'uscita in grande stile, Claudio. Sì, ciao Franco, sicuramente un'uscita particolarmente curata da Universal Pictures Home Video, che ha pensato bene di editare un'edizione DVD singolo, DVD doppio disco, zeppo di extra e, come giustamente dicevi tu, il Blu-ray, che è chiaramente in questo caso la maniera migliore per poter visionare in stile perfetto cinematografico, sia sotto il profilo video che audio. Questo film è molto divertente, la qualità è assolutamente incredibile, tra l'altro il Blu-ray consente di ascoltare il film con una traccia DTS ad alta risoluzione, sono veramente tantissimi gli extra, segnalo sicuramente le scene estese alternative, il cortometraggio Orgoglio di una nazione nella versione integrale, un cortometraggio che è presente solo in alcune parti all'interno del film, e un'interessante discussione tra il regista Quentin Tarantino e Brad Pitt. Insomma, c'è da divertirsi sicuramente con tutti questi contenuti speciali per sviscerare ulteriormente la materia, che con Tarantino ovviamente non finisce mai. Andiamo avanti con un film assai meno noto e proprio per questo forse interessante da scoprire, si intitola Park, ascoltiamo la clip. Scegliere un uomo nel fiore degli anni, sposato con un figlio, il simbolo perfetto di una vita priva di qualunque emozione. Sceglierlo per cosa? Beh, per crocifiggerlo sulla porta di una chiesa, per risvegliare il mondo. Una crocifissione mi sembra il minimo. George Clooney è un uomo di successo negli affari, sposato anche se con un figlio difficile, ha una vita che si potrebbe definire normale. E poi c'è Paul Marteau, ricco e intelligente, vorrebbe fare parte del mondo che lo circonda, ma ne è impossibilitato per il severo e cinico giudizio che nutre su esso. Un giorno le strade dei due uomini si incrociano, per Clooney forse è la nascita di un'amicizia, mentre per Marteau, subillato da una madre con problemi mentali, è occasione per crocifiggere l'idea di felicità dell'uomo occidentale. Park arriva da Officine Ubu in DVD, è un film presentato alla Mostra di Venezia nel 2008, tratto da uno dei rari romanzi di John Cheever, e il film di Arnaud de Palière racconta delle oscurità dell'animo umano e di come possano condurre ad azioni prive di morale. la lettura è complessa e sicuramente intrigante. Il film arriva appunto in DVD con una qualità sicuramente interessante, non ci sono particolari problemi, è presente solamente una traccia Dolby Digital due canali in italiano e come extra il trailer. Per parlare della prossima proposta in DVD, noi ci facciamo accompagnare da questo tappeto musicale, perché il film che stiamo per proporvi è proposto anche nella sua versione in video solo in lingua originale, che è giapponese, quindi farvi ascoltare un passaggio in giapponese non sarebbe stato particolarmente comprensibile e più. Stiamo parlando di un film però molto interessante che si intitola Vital e, al contrario del suo titolo, parla della relazione con la morte, ma in maniera molto originale. Lo ha diretto tra l'altro Shinya Tsukamoto, a cui dobbiamo qualche anno fa un film che è stato molto amato dalla critica italiana come Tetsuo. Claudio, raccontaci un po'. Sì, è la storia dopo un incidente stradale in cui ha perso parte della memoria di Hiroshi, che decide di riprendere i suoi studi di medicina. Al corso di studio del corpo umano si ritroverà a dissezionare il cadavere di una giovane e con il graduale ritorno della memoria si renderà conto che il corpo è proprio quello di Ryoko, sua fidanzata, morta appunto nello stesso incidente stradale. Il visionario regista giapponese realizza un poetico melodramma sull'amore e la morte, all'inseguimento dell'anima e del recondito luogo in cui si cela all'interno del corpo. Da Koch Media arriva il DVD di eccellente qualità video. Il film, come ricordavi tu, non è stato doppiato, per cui è disponibile una traccia in Dolby Digital multicanale in giapponese con sottotitoli. Tra gli extra sono presenti le immagini della presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia del 2004 e 20 minuti di making of. E allora andiamo all'ultima segnalazione di questo fine settimana. Abbiamo parlato di horror prima, scorgendo la classifica con Paranormal Activity. Insomma, l'horror ha avuto sicuramente un grande rilancio negli ultimi anni. Uno dei film che hanno contribuito a questo rilancio a un certo punto, ormai di qualche anno fa, è Final Destination, un film che poi ha avuto tutta una serie di sequel forse inferiori all'idea originale del primo. Ascoltiamo la clip. Tu hai detto, dovete scendere, l'aereo sta per esplodere. Come facevi a saperlo? Ho avuto un presentimento, uno strano presentimento. Hai preso dei sedativi prima dell'imbarco? O una volta a bordo hai preso pillole per dormire, narcotici, allucinogeni? Hai assunto droghe? No. L'ho visto. L'ho visto esplodere. Ho visto l'aereo che esplodeva. È un liceale con la capacità di intuire come, dove e quando la morte colpirà. Se ne rende conto nel momento in cui ha la visione dell'aereo su cui si trova assieme ai compagni di classe che esplode pochi istanti dopo il decollo. Preso dal panico riesce a scendere seguito da pochi che gli hanno creduto, ma il temporaneo malumore per la gita a Parigi rimandata diventa tragico sgomento quando tutti assistono all'effettiva esplosione del velivolo. Poco tempo dopo i 7 superstiti alla tragedia iniziano a morire in circostanze inspiegabili. Thriller ad alta tensione per una serie che ha già collezionato 3 sequel. Da Mondo Home Entertainment, Final Destination arriva anche in Blu-ray in alta definizione con una qualità veramente eccellente. È presente una doppia traccia Dolby Digital ad alta risoluzione in italiano e in inglese. Tra gli extra, molto interessanti, le immagini della proiezione test del film alla scoperta delle reazioni del pubblico, oltre a un approfondimento sui fenomeni paranormali. Ebbene, allora grazie Claudio per averci raccontato, come sempre, le principali novità che si possono trovare in videoteca in questa settimana e questo periodo. Appuntamento la prossima settimana con Claudio Pofi per parlare di DVD. A presto, un saluto. E come sempre con i consigli di Claudio Pofi e con l'onvideo si chiude la puntata della Rosa Purpurea. L'appuntamento va alla prossima settimana. Io ringrazio Roberto Scaltritti che ci ha dato una mano in regia, Anita Panizza che invece lo ha fatto in redazione. L'appuntamento è per il sabato alle 18 e nel nuovo orario della replica della domenica alle 15. Grazie per averci seguito. Un saluto da Franco D'Assisi.